vedremo ottenere la liberazione, anche fare che ottenere anche lo stato di Buddha. Quindi dobbiamo sentirsi molto fortunati di avere questa possibilità, questa esistenza, okay? Le possibilità che offrono questa esistenza. Si dovrebbe anche pensare che questa vita è molto difficile da ottenere, no? Con tutti gli attributi perfetti, è molto molto difficile da ottenere. Okay? Comunque dovremmo pensare anche che anche se ce l'abbiamo non durerà ancora per molto, okay? Quindi nel migliore dei casi potrebbe andare ancora avanti per 30 anni, 40 anni, dopo si ferma, no? E anche non siamo neanche certi che potremo arrivare fino a quest'età. Quindi cioè, potrebbe la morte, cioè, il passare al di là, il passare nell'altra esistenza, potrebbe accadere anche stasera, non si sa quando si torna a casa, cioè, quando si dorme, cioè, non c'è certezza della durata della vita, okay? Quindi dovremmo anche tenere questo in mente. Poi dovremmo pensare che, quindi dopo dovremmo riflettere, capire, cercare di vedere se la vita si ferma, se la mente, la cognizione, che è l'esperienza cognitiva, si ferma con questa vita o invece si continua. Okay? Quindi noi abbiamo fatto un po' di investigazione rispetto a questo, abbiamo stabilito ovviamente che è più probabile che la cognizione si mantiene dopo questa esistenza. Okay? Quindi dovremmo riflettere e pensare che tipo di esperienza avremo nella prossima esistenza. Quindi sono due possibilità, un'esperienza di felicità o un'esperienza di sofferenza. E queste due esperienze sono direttamente prodotte dalle proprie azioni e dalle proprie qualità di mente. Quindi osservando la propria mente, le azioni e le attitudini che abbiamo avuto anche solo in questa vita, vedremo che c'è grande probabilità per sperimentare difficoltà nella prossima esistenza, okay? Quindi si dovrebbe riflettere e vedere se effettivamente c'è un programma, qualcuno, qualcosa che ci permette di trovarci al riparo della sofferenza futura e vedere che i tre gioielli, quindi il Buddha, il suo insegnamento e la comunità degli esseri che hanno realizzato il modo di esistere dei fenomeni sono effettivamente c'è cioè fonte di protezione rispetto alla sofferenza futura, okay? Quindi si dovrebbe tenere questo in mente del fondo del cuore, quindi prendere rifugio nei tre gioielli. Poi si dovrebbe riflettere e alzare la propria motivazione, okay? Quindi se la possibilità di ottenere un'esperienza di fortunata nella vita futura, come abbiamo in questa vita, anche se lo otteniamo, dobbiamo anche capire che non è sufficiente, nel senso che è nella natura dell'insoddisfazione, della difficoltà, della sofferenza, okay? Comunque è qualcosa di impermanente, okay? Quindi essendo qualcosa di impermanente non è una fonte valida di, cioè, di come si dice, non è una sì, siamo sempre condizionati e il fatto che qualcosa sia impermanente non è qualcosa sulla quale possiamo appoggiarsi. Quindi si dovrebbe alzare la motivazione e capire che abbiamo la possibilità di passare al di là della sofferenza, okay? Comprendendo qual è l'origine della sofferenza, qual è l'origine di questa forma di esistenza, delle difficoltà che abbiamo. Dovremmo cercare di capire che abbiamo la possibilità di eliminare perché tutto questo è prodotto dall'ignoranza. E quindi se eliminiamo l'ignoranza, possiamo emergere di questa forma di esistenza. Okay? Quindi questa è la ricerca della liberazione individuale. Quindi se questa vita possiamo, in accordo alle proprie predisposizioni, alla propria maturazione e comprensione, okay? Possiamo o produrre le fonti della felicità futura o produrre o emergere completamente dell'esistenza condizionata, okay? Ma anche questo secondo livello di motivazione non è ancora sufficiente perché dobbiamo prendere in considerazione tutti gli esseri, no? Cioè realizzare che questa vita è nella natura della sofferenza, che abbiamo la possibilità quindi di andare al di là e a fare i progetti, quindi per liberarsi. È come per esempio se siamo in prigione o cioè in un posto dove siamo tormentati costantemente e facciamo progetti per uscire lasciando la famiglia dietro, no? I propri genitori, eccetera. Quindi è un'attitudine un po' un po' limitata, diciamo, okay? Quindi si dovrebbe non soltanto ricercare la propria liberazione, ma anche ricercare di ottenere delle qualità, okay? Per poter anche proteggere gli altri dalla sofferenza e metterli in condizione di felicità. Quindi questo stato, okay? Lo stato di Buddha, quindi avendo riflettuto sul fatto che tutti gli esseri sono esattamente nella nostra stessa condizione, sperimentano esattamente le stesse insoddisfazioni e difficoltà giorni dopo giorni, okay? Tutti sono esattamente nella stessa condizione. E tutti questi esseri, da tempi senza inizio, hanno avuto delle connessioni molto strette con noi. Si dice nei sentimenti che appartengono al Mahayana, che tutti gli esseri sono state proprie madre, a proprio padre, fratello e sorella, che è del passato. Quindi esattamente come la madre di questa vita c'è sempre al centro dei suoi pensieri. Cioè, occupa sempre, cioè, il nostro benessere la preoccupa sempre. Esattamente in quel modo, tutti gli esseri, quando hanno avuto questa connessione con noi, avevano questa stessa attitudine, okay? Quindi dobbiamo capire che abbiamo questo grande debito all'incontro degli altri, quindi dobbiamo cercare di generare amore, compassione al loro incontro e quindi di trovare uno stato dove effettivamente possiamo ricambiare questa gentilezza, quindi proteggere gli esseri della sofferenza e aiutarli a ottenere più grande serenità. Questo stato è lo stato del Buddha, quindi lo stato del Buddha è una forma di culmine della propria coscienza, no? Dove le qualità vengono consumate, tutti i difetti vengono abbandonati e la mente dimora in uno stato di benessere per se stesso ma anche per gli altri e questo si fa spontaneamente, okay? Quindi questo è lo stato di Buddha e la mente che desidera ottenere quel livello, quello stato, si chiama la mente di Bodhicitta e caratterizza gli esseri di motivazione elevata, di grande motivazione, di alta motivazione, okay? Quindi dovremmo cercare, anche se la nostra comprensione è povera, okay? Diciamo siamo all'inizio. Dobbiamo comunque cercare di generare quel livello di motivazione, okay? Pensando, anche se non sappiamo che cos'è lo stato di Buddha, da che cosa è caratterizzata, almeno generare il desiderio che questa mente, siamo qui insieme, stiamo ascoltando questi vari discorsi, difficili anche da capire certe volte, quindi per fare in modo che la nostra mente diventi una fonte di benessere per noi, ma anche per gli altri. Quindi se abbiamo questa motivazione, fantastico. Ok, quindi noi siamo arrivati alla conclusione delle contemplazioni che riguardano l'essere di motivazione iniziale, ok? Stiamo per finire gli insegnamenti sulla legge di causa effetto, il karma, ci abbiamo passato un po' di tempo, è qualcosa di molto difficile da ricevere, okay? Da accettare, qualcosa sul quale dobbiamo riflettere molto e in dettaglio, okay? Semplicemente ascoltare una volta quel tipo di cose non ci permette di modificare il nostro comportamento. Lo scopo di tutto questo, come lo dicevo prima, no? Lo scopo dell'insegnamento è di ridurre la sofferenza, ridurre cioè la sofferenza, eventualmente eliminarla completamente. Okay? Quindi come prima cosa dobbiamo capire che la sofferenza dipende, come tutti i fenomeni composti sorgono da causa e condizione. Okay? Tutte esperienze, sia di felicità o di benessere, quindi dipendono da causa e condizione. C'è una congruenza tra le cause e il risultato. Quindi un'esperienza di sofferenza è dovuta a azioni che sono incongrue, okay, col modo di esistere delle cose, col modo di esistere delle persone. È il frutto, è influenzato dalle proprie proiezioni, è influenzato dalle proprie distorsioni della realtà. Okay? Abbiamo queste distorsioni della realtà che ci fanno percepire i fenomeni in un modo molto particolare, che possiamo caratterizzare da esistenza del proprio lato o dotato di caratteristiche obiettivi. Okay? Caratteristiche obiettivi. dotato di una certa essenza, okay? Comunque i fenomeni appaiono come piacevole, spiacevole, indipendentemente dalla mente, no? Del proprio lato. Un oggetto è attraente dal suo proprio lato, è la sua natura intrinseca di essere un oggetto di benessere o di piacere, un altro è intrinseco alla sua natura di essere qualcosa di sofferenza. È la stessa cosa per le persone, per le situazioni. Quindi, avendo questa allucinazione, si sviluppano attività mentali come attaccamento, avversione, brama, malevolenza, gelosia, invidia, orgoglio, e motivati da queste attitudini mentali, queste afflizioni mentali, andiamo a compiere delle azioni. E queste azioni, quindi, che vengono compiute in questa sfera di ignoranza, avranno come risultato quattro tipi di risultato che abbiamo visto, no? Un risultato completamente maturato, un risultato proiettante, che sono cinque aggregati, quindi i costituenti fisico-psichici di un essere e le varie esperienze di questo essere durante la sua esistenza. Okay? Tutto questo è il risultato diretto e indiretto delle proprie azioni e delle proprie allucinazioni. Okay? Quindi per fare in modo di non sperimentare queste varie sofferenze che sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, dobbiamo per primo passo modificare il nostro comportamento. Quindi ci sono delle azioni che dobbiamo evitare di compiere perché sappiamo che hanno dei risultati particolari di sofferenza. Okay? Questo le abbiamo visto qual è un'azione completa, quali sono le caratteristiche del karma, quali sono le sue quattro modi di maturazione, di maturare. E quindi non c'è bisogno di ripassare queste cose. E adesso vediamo questa presentazione finale, okay? Che sono sì, gli effetti sono c'è un altro modo di riflettere sul karma e sui effetti in dettaglio, non più dal lato della sofferenza, ma questa volta ma dal lato invece del benessere. Quindi sappiamo che, per esempio, una vita umana, ci sono certe cose all'interno di una vita umana che sono percepite dalla convenzione come cose da ricercare, okay? Da ricercare. Per esempio il benessere, la salute, okay? Il benessere materiale, okay? Un'apparenza piacevole, un certo potere, capito? Cioè, potere. Devo spiegare, c'è una capacità di influenzare gli altri in un modo positivo, è questo che ricerchiamo. Okay? Quindi queste cose, questi vari attributi, okay, che sono 7 o 8, dipendono di come andiamo a contarle, dipendono anche dalle loro proprie cause. Okay? Quindi adesso fin d'ora abbiamo visto cosa dobbiamo evitare per non produrre certi risultati di sofferenza. Adesso andremo a vedere cosa dobbiamo invece mettere in pratica per sperimentare sette attributi particolari che sono di grande beneficio nell'esistenza umana, per esempio. Allora, sono di beneficio non soltanto dal punto di vista mondano, okay? Ma lo scopo di accumulare le cause per manifestare questi risultati è semplicemente di rendere la propria pratica più facile e avere una più grande capacità a beneficiare gli altri. Okay? Questo è lo scopo, non è semplicemente una ricerca, cioè una ricerca di avere un certo benessere per sé, ma deve essere anche associato a un'attitudine altruistica. Okay? Quindi adesso vedremo queste cose. Ci sono delle domande rispetto a quello che abbiamo visto le settimane scorse? Ok, sì, durante il discorso ci sono delle cose che non vi sembrano molto chiare o confuse o non avete capito il mio modo di esprimere questi vari concetti, potete chiedere e io cercherò di dare una spiegazione. Ok, quindi cerchiamo di finire brevemente questa sezione. Ci sono sette attributi particolari da ricercare, da ottenere, e ve lo ripeto, l'ottenimento di questo ovviamente rendono la vita più facile, ma ci danno anche la possibilità, lo scopo principale è di incrementare la pratica, ok? Di avere delle condizioni favorevoli alla pratica per ottenere la liberazione e soprattutto ottenere lo stato di Buddha per il beneficio degli altri. E l'ottenimento anche di questi attributi ci permettono, mentre che noi cioè, pratichiamo, diciamo, portiamo avanti il nostro sentiero, di essere di beneficio agli altri. Ok? Quindi queste sette attributi sono la durata di vita lunga, ok? Un aspetto fisico piacevole, il lineaggio buono, ok? Potere, una parola anche, come si dice, che ha un certo potere, ok? Quindi sì, una parola che ha un certo autorità, ok? Avere una certa rinomanza, si dice rinomanza? Fama. Essere rinomato. La fama è un po' tipo superstar, no? Non è quello di... Ok, e avere una certa forza, ok? Fisica o mentale. E questo è quindi, per esempio, no? Avendo una vita lunga, qual è il beneficio di avere una vita lunga? Abbiamo molto più tempo per completare le due accumulazioni, no? Abbiamo visto che il risultato, lo stato della liberazione, lo stato di Buddha, dipende dalle due accumulazioni di saggezze e di energia virtuosa. Quindi più la vita è lunga, più la nostra pratica non viene interrotta, ok? Quindi da questo punto di vista, quindi possiamo qui in questo modo completare una grande accumulazione e lavorare ai due scopi, al proprio scopo e al scopo degli altri per molto tempo. Quindi questo è lo scopo della vita lunga. Ok? Ok? Allora, per ottenere la vita lunga, cosa si fa? Non si devono danneggiare gli altri esseri senzienti, quindi non si deve uccidere. Dobbiamo cercare di liberare gli esseri che vanno a essere uccisi, per esempio animali. Ok? Praticare la generosità del cibo, ok? E prendersi cura delle persone ammalate, ok? Quindi con medicine o quando sono ammalate, essere intorno a loro, no? Cercare di solleviare la loro sofferenza, in quel modo vengono create le cose per una vita lunga e in salute nella vita futura. La cosa principale per una vita breve e soprattutto una vita colma di malattie, l'abbiamo visto, è l'uccidere gli altri, ok? Animali, eccetera. Poi abbiamo l'aspetto piacevole. Un aspetto piacevole, a qual è il beneficio di avere un aspetto piacevole? No, non soltanto di farci la vita più facile, ma qui è semplicemente perché le persone naturalmente si aggregano intorno a uno, no? Quando un aspetto piacevole, quindi in quel modo diventa più facile per influenzare le persone in modo positivo. Okay, cosa bisogna fare per non avere un aspetto piacevole? La causa principale è la pazienza, okay? Quindi la mente non disturbata, qualsiasi sia le condizioni esterne. Invece, l'opposto, qual è la condizione, la cosa principale per un aspetto fisico sgradevole, è la collera. Okay? La collera. Quindi fare le offerte anche di luce, okay? Offrire anche i vestiti, okay? Alle persone, soprattutto ai propri insegnanti, ai maestri, eccetera, ai propri lama. Okay? Creare restaurare le rappresentazioni dei Buddha che hanno degenerato o diciamo o fare in modo che vengano prodotte nuove, quindi dei dipinti, delle statue, dei tsatsa, queste cose, no? Si sono fatti bene, diventano cause per l'aspetto piacevole. Poi abbiamo il lineaggio buono, quindi nella nostra cultura sarebbe uno stato sociale elevato, per esempio, potrebbe essere tradotto in quel modo. Quindi, cosa possiamo fare? Qual è il beneficio di essere in uno stato sociale elevato? È che semplicemente abbiamo molte persone che sono a disposizione per portare avanti i nostri progetti. Okay? Quindi se abbiamo vari progetti, per esempio, no? Costruzione di scuole, quello che volete, di beneficenza, eccetera, automaticamente ci sono persone che sono presente per aiutarci. Okay? Questo è lo scopo. Le cause per avere uno stato sociale elevato, quindi primo è eliminare l'orgoglio, okay? Quindi non avere un'attitudine di orgoglio, okay? E invece rispettare le persone umile, ma anche quello che sono degno di rispetto, quindi quello che hanno più di qualità di noi. Okay? Queste sono le cause principali. Potere, quando si tratta di potere, quindi si tratta di avere delle risorse, cioè delle grandi risorse, ok? E anche di avere molte persone che sono a disposizione per aiutarci, ok? E questo, quindi il potere, a che cosa ci serve di avere delle risorse? Semplicemente a praticare la generosità, a beneficiare gli altri tramite la generosità o il sostegno. Okay? Quali sono le cause per produrre questo potere, cioè materiale? È la generosità materiale, quindi dare il cibo, vestiti, okay? Che siano richiesti o no, okay? Dare a quelli che soffrono in generale e a dare a quelli che hanno delle qualità, ma che non hanno possedimenti. Quindi invece la causa principale per essere privi di risorse materiali è il rubare. Okay? Rubare si ruba in questa vita, la vita prossima siamo privi di risorse materiali. Okay, per ciò che riguarda una parola, un certo potere nella parola, diciamo una parola trustworthy, come potrebbe essere tradotta in italiano? Una parola che viene ascoltata, una parola veritiera che viene ascoltata. Anche entra in questo degna di fiducia, sì. Comunque una parola che ha un certo potere, che va seguita, che le persone ascoltano. Okay? Quindi lo scopo di aver quel tipo di è di essere di influenzare gli altri in un modo positivo. Aiutarle a discriminare tra ciò che deve essere adottato e ciò che deve essere abbandonato in termini di comportamento per abbandonare sempre le cause della sofferenza. Ok? Quindi aiutare, cioè in quel modo possiamo beneficiare gli altri e maturare la loro continuità mentale. E quindi la causa per questo è l'abbandono, cioè l'abitudine, scusate, la familiarità con l'abbandono delle quattro non virtù della parola. Quindi le quattro non virtù della parola sono azioni che indeboliscono automaticamente la nostra parola. Quindi abbiamo il mentire, la parola che divide le persone, la parola che ferisce e il parlare a vanvera. Ok? Queste sono le quattro. Quindi tramite il continuo abbandonare di queste quattro forme di parola, la maturazione di questa pratica, la maturazione di questa attitudine è invece una parola con potere. Poi c'è una certa rinomanza nel mondo, essere conosciuto nel mondo in un modo positivo, non intendo essere conosciuto in un modo negativo, ok? Quindi qual è il beneficio di questo? Il beneficio di questo è che abbiamo una certa fiducia, c'è cioè una certa fiducia in noi, nella nostra capacità di portare avanti certe cose, anche nell'esprimersi in assemblea, in queste cose. Quindi dovuto avere rinomanza. Si dice in italiano rinomanza? No, non si dice, non è italiano. Essere dovuto essere rinomato, ok? Abbiamo persone che ci aiutano a portare avanti i propri progetti, ok? Per beneficiare gli altri. Ok? Allora, la causa per questo sono il compiere preghiere di aspirazione per ottenere delle qualità. Fare offerte tra i gioielli, i propri genitori, eccetera. Okay? E poi abbiamo la forza. Okay? Forza di mente, ma anche la forza fisica, c'è cioè la salute, c'è cioè una certa resistenza. Okay? Certa resistenza. Okay? Quindi questo sorge dal compiere ciò che gli altri non sono in grado di compiere, cioè le cose difficili, okay? O dall'assistere le persone che richiedono la nostra collaborazione. Ma anche dovuto al dare medicina, cioè il cibo, e a eliminare picchiare gli esseri, gli animali, eccetera. Okay? Picchiare o trattare male. Quindi dovuto a questa forza non siamo mai scoraggiati, cioè mai scoraggiati di fronte alle varie difficoltà o condizioni, ok? Anche sì, di portare avanti certi progetti, certe cose. Quindi dovuta a questa resistenza fisica e mentale, quindi abbiamo una mente molto stabile, c'è un grande entusiasmo, ok? E sperimentiamo pochissime difficoltà fisiche, malattie, problemi fisici, eccetera. Okay? Quindi dovremmo cercare di accumulare queste varie condizioni perché sono di grande beneficio. Dovuto a queste condizioni nella nostra vita sarà più facile, tutto quello che vogliamo compiere sarà ottenuto più facilmente e avremo una più grande capacità a beneficiare gli altri a qualsiasi livello lo vogliamo fare. Quindi dobbiamo sempre cercare nel praticare queste varie cose, perché qui siamo nella legge di causa e effetto, che okay? Quindi nel praticare queste varie cose per assicurarsi una maturazione e anche assicurarsi, diciamo, che la nostra mente non degenera nella sua motivazione, dobbiamo sempre cercare di avere una motivazione priva di competizione, okay? Eliminare la mente di competizione, la mente di gelosia. E dobbiamo cercare anche a quindi sempre dedicare le proprie virtù accumulate, okay? E cercare di attualizzare queste cose per il beneficio degli altri dal fondo del cuore. Ok, quindi per concludere quindi questa sezione, quindi avendo realizzato che le azioni virtuose e non virtuose, quindi hanno i loro propri risultati e le loro proprie esperienze, okay? Dobbiamo cercare di avere un comportamento in linea con quello che è stato presentato durante questi incontri, no? Questo argomento. E questo non può accadere senza guadagnare una convinzione intima su questa legge di causa-effetto. E questa convinzione, come dicevo prima, non può essere guadagnata velocemente, dobbiamo riflettere in dettaglio sulla maturazione delle azioni, vedere nella nostra vita, per esempio, vedere nella nostra vita cosa ci dà fastidio, quali sono le varie sofferenze che sperimentiamo e capire qual è l'origine di queste sofferenze, qual è il tipo di comportamento che ha prodotto quel tipo di sofferenze specifico. Okay? È soltanto in quel modo, facendo il ponte con la propria vita, la propria esperienza, che possiamo siamo a essere toccati, a toccare la mente a un livello meno superficiale. Okay? Quindi dobbiamo esaminare anche le proprie azioni di corpo, parole e di mente. Questo è molto importante. Non dobbiamo star lì a guardare quello che fanno gli altri, dobbiamo principalmente occuparsi della propria mente, della propria parola e delle proprie azioni e osservare questo nello specchio del Dharma. Quindi adesso, tra l'insegnamento e le nostre azioni, c'è una gap. Sì, non siamo in sintonia, ok? Quindi dobbiamo ridurre questa cosa. Quindi dobbiamo sempre guardare la propria mente nello specchio del Dharma, okay? E vedere sì la propria mente, la propria parola, il proprio corpo è in accordo all'insegnamento, okay? E quindi piano piano dobbiamo cercare di abbandonare queste azioni che sono fuori questo riflesso del Dharma e eliminare anche fino alla motivazione di compiere l'azione, no? Fino alla motivazione stessa dobbiamo cercare di eliminare. Okay? E dobbiamo quindi applicare antidoti, okay? Applicare antidoti alle varie afflizioni, perché queste azioni sono spinti da afflizione, quindi non soltanto dobbiamo agire sul corpo e la parola, okay? Quindi perché frenendosi, cioè, non impegnando più in certe attività, la mente anche diventa meno coinvolta, quindi è meno attratta da queste azioni o da queste attività piano piano, ma dobbiamo anche agire sulla mente e calmare le motivazioni, ciò che motiva questi slanci e queste azioni. Okay? E questo quindi dobbiamo riflettere sui antidoti. Le antidoti alle afflizioni le vedremo più avanti quando saremo nella seconda sezione dell'essere di motivazione intermedio. Okay? E dobbiamo, altra cosa, distruggere il karma accumulato. Okay? Quindi, il karma negativo ha un'unica qualità che può essere neutralizzato. Okay? Quindi tramite i quattro poteri opponenti possiamo neutralizzare o depauperare il potenziale karmico della sua capacità di maturare e di produrre un'esperienza di sofferenza. Quindi, non so, quindi alla fine della giornata quello che andrebbe fatto è controllare quello che abbiamo fatto durante il giorno, che la sera dove controllare quello che non è andato bene e quello che è andato bene, okay? Quello che non è andato bene dovremmo cercare di purificarlo, neutralizzare questa capacità di maturazione. Ma capire anche che queste azioni le abbiamo compiute da tempi senza inizio, quindi abbiamo un bagaglio colmo di potenziali karmiche che sono pronti da maturare. Quindi non soltanto dobbiamo cercare di specificamente neutralizzare ciò che è stato compiuto nella giornata, in questa vita, ma anche da vita e tempi senza inizio, quindi dobbiamo associare una purificazione generale. Okay? Allora ci sono vari testi, che sono dei paragrafi che prendono in considerazione tutte le azioni di corpo, parole e mente compiute da tempi senza inizio, il rompere i tre tipi di voti, eccetera, eccetera. Quindi recitando questo con un sentimento un profondo rimorso per la capacità di sofferenza che abbiamo creato per noi, okay? Questo è il primo potere, che è quello del rimorso. Poi si dovrebbe produrre anche una determinazione di non compiere più queste varie attività, okay? Cercare di sinceramente di non compiere più quel tipo di attività. Poi si dovrebbe utilizzare il potere, l'abbiamo fatto insieme, quindi vado veloce, utilizzare il potere del sostegno, del supporto, quindi riprendere rifugio generalmente di compassione, e alla fine utilizzare l'antidoto effettivo. L'antidoto effettivo quindi è qualsiasi pratica virtuosa fatta in questo contesto. In generale vengono presentati la lettura di sutra profondi, per esempio come il sutra del cuore, e si riflettere sul significato, okay? O il riflettere sul significato della vacuità, della mancanza di essenza intrinseca. Questo è un grande potere di purificazione. Perché? Perché le azioni sono compiute principalmente spinti dall'ignoranza, dall'afferrarsi all'io, okay? A un io vero e proprio. E quindi il riflettere sulla vacuità è un antidoto diretto a questa concezione erronea della concezione di un io. Poi c'erano anche dei mantra come quello di Vajrasattva. Ok, allora il mantra di Vajrasattva andrebbe recitato, il mantra lungo, almeno 21 volte. 21 volte perché la recitazione solo di 21 volte del mantra del Vajrasattva, anche se gli altri tre poteri non sono così ben presenti, blocca l'effetto esponenziale del karma, viene bloccato. Non dico che è purificato il karma, semplicemente l'effetto esponenziale dell'azione viene bloccato. Quindi c'è un grande beneficio. L'altra cosa sono produrre delle rappresentazioni del Buddha, okay? Come dei tsatsa, per esempio, questi bassi rilievi. Okay? O presentare offerte, fare le offerte, quindi sono varie pratiche, offerte d'acqua, eccetera. O la recitazione dei nomi dei 35 Buddha, okay? Questo conoscete. Questo fatto quotidianamente, associato agli altri tre altri poteri, piano piano possiamo neutralizzare il karma negativo accumulato dai tempi senza inizio. Okay? Ovviamente, se vogliamo fare le cose in un modo serio, dobbiamo impegnarci in ritiri di purificazione. Okay? Ritiri di purificazione. Quindi, per esempio, cioè dipende dal tempo che abbiamo. Una settimana, un mese, 2, 3 mesi, per 3 mesi impegnarsi per esempio nel ritiro a lungo di Vajrasattva e completare le 100.000 recitazioni, ok? O completare anche in 3 mesi le 100.000 prostrazioni ai 35 Buddha, ok? In quel modo cioè, il karma viene neutralizzato. Quindi non è che dobbiamo sentirsi molto rilassati, nel senso che possiamo compiere qualsiasi ciò che vogliamo e andiamo pure perché lo possiamo purificare dietro, no? Questo è come, per esempio, non so, voler correre ai giochi olimpici, ok? Però rompersi le gambe dicendo comunque me la faccio sistemare dopo, capito? Non è mai la stessa cosa, la mente non è mai la stessa, nel senso che andiamo a neutralizzare la capacità di purificare, la capacità del karma a produrre un risultato di sofferenza, ma un'oscurazione karmica rimane. Cosa fa un'oscurazione karmica? Pospone la comprensione o la realizzazione. Quindi la nostra mente, non so, quelli che studiano sicuramente hanno fatto queste esperienze. Che si legge una volta, 2, 3, 4, 5, 6 volte il paragrafo e non si capisce niente. Okay? Questo è dovuto all'oscurazione karmica. Okay? Quindi questo ci vuole anche molto tempo per purificare queste cose. Quindi non pensate che potete fare quello che volete perché comunque possiamo purificare. Okay? Posponete anche in quel modo la realizzazione. È da tanto tempo, okay? Cioè da molto. Ok, quindi in quel modo abbiamo completato il ciclo di insegnamento dell'essere di motivazione iniziale. Questo significa che sì, vengono messe in pratiche queste istruzioni che abbiamo visto insieme da quest'estate, perché abbiamo cominciato quest'estate. Allora, siamo certi, sicuri, certi di sperimentare felicità nella vita futura e di non sperimentare tanta sofferenza. Okay? Ne possiamo anche creare le condizioni favorevoli che desideriamo, okay? E eliminare tutto ciò che ci dà fastidio in questa vita, abbiamo la capacità di non sperimentarlo nella vita futura, perché basta eliminare il comportamento che produce quel tipo di disagi. Okay? Quindi normalmente adesso abbiamo questa capacità, okay? Avendo meditato su vari cicli, queste varie istruzioni, quindi la preziosa rinascita umana, la morte e l'impermanenza, la sofferenza dei rami inferiore, okay? I tre gioielli, okay? E la legge di causa effetto, normalmente dovremmo aver generato l'attitudine di un essere di motivazione iniziale. Okay? Se ancora non è stata generata perché non ci applichiamo abbastanza nella contemplazione. Okay. Non abbiamo abbastanza ancora purificato il karma negativo che impedisce il sorgere di queste comprensioni che cambiano l'attitudine mentale. Okay. Quindi anche se cerchiamo di meditare, di studiare, queste mente non sorgono. Perché? Perché abbiamo ancora molto karma da purificare, molta oscurazione e abbiamo pochi energia virtuosa, ok? Quindi dobbiamo cercare di produrre le condizioni favorevoli al far sorgere queste mente, questa realizzazione, e quindi questo è principalmente l'accumulazione di virtù, ok? Quindi è eliminare le condizioni sfavorevoli. Eliminare le condizioni sfavorevoli significa avere un comportamento etico, ok? E purificare il karma e le impronte karmiche tra pratiche come quelle dei quattro poteri, ok? E quando le condizioni sono presenti, anche se non volete ottenere le reazioni dell'amrim, sorgono, okay? Noi dobbiamo solo continuare a contemplare queste cose, a rifletterci sopra, okay? E a purificare il karma e accumulare energie virtuose. E col tempo la comprensione e la reazione devono sorgere. Quando le cose e le condizioni sono presenti, è impossibile ostacolare un risultato. Okay? Un risultato sorge in un modo certo, assicurato, quando le cose e le condizioni sono presenti. Quindi noi dobbiamo, il nostro lavoro è di produrre queste cose e queste condizioni. Okay? Qual è la misura di aver generato la mente di un essere di motivazione iniziale? Quindi adesso, se guardiamo la nostra mente, in un modo spontaneo, ok? Quasi univoco, alla ricerca del benessere di questa vita. Okay? Tutto quello che facciamo è motivato dalla preoccupazione di eliminare la sofferenza di questa vita e di ottenere la felicità di questa vita. Okay? Quindi un essere è in questa sfera, ve lo dico così, in questa sfera, con quel tipo di atteggiamento, guadagniamo l'opposto. Guadagniamo l'opposto, è assicurato. Perché automaticamente andremo a sviluppare una mente molto turbolente, con molto attaccamento, molta avversione, poco paziente, quindi lo stato di mente proprio che produciamo con una ricerca esclusiva del benessere di questa esistenza e dell'eliminare tutte le piccole condizioni che ci danno fastidio in questa vita, e il risultato di questo è una mente nevrotica, okay? Nevrotica, con poco spazio, centrata su di sé, in quel modo è impossibile manifestare e ottenere neanche alleviare le difficoltà di questa vita. Quindi invece, se abbiamo riflettuto sulla morte, l'impermanenza, cioè tutte queste varie cose, allora piano piano la mente si disimpegna di questa ricerca frenetica. La mente capisce che dopo questa vita ce n'è un'altra, dopo che ce n'è ancora un'altra, e ancora un'altra, ancora un'altra, fino alla liberazione. Comprende che la sofferenza e la felicità dipende dalle proprie azioni, dalle proprie attività, dipende dall'etica, dipende dalla generosità, dipende dalla nostra attenzione verso gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Comprende che attitudini come l'attaccamento, l'avversione, l'orgoglio sono fonte di sofferenza, sono cose da abbandonare. Quindi piano piano la mente si pacifica. Okay? Se la mente si pacifica, sperimentiamo la felicità. Un più grande benessere, una più grande serenità. Se la mente si agita, sperimentiamo sofferenza. Okay? Che cos'è l'attitudine? Quindi, avendo contemplato queste varie cose, dovremmo avere piano piano una mente che non ricerca esclusivamente il benessere di questa vita, ma incomincia a capire che le vite future sono più importanti, perché sono molte e dipendono di ciò che facciamo in questa vita. E le qualità di esperienza delle vite future dipendono da ciò che facciamo in questa vita. Quindi anche se questa vita ha una certa importanza dal punto di vista di essere una preziosa esistenza umana, eccetera, eccetera, è che è difficile ottenere, certo, però ciò che è importante non è la vita stessa, è ciò che ne facciamo. Questa vita è anche molto breve, è molto breve. Se guardiamo, no, siamo più o meno tutti qui a metà della nostra vita, anche di più, è passato molto velocemente. Quindi è molto breve e le vite future sono lunghe, lunghe e numerose, è multiplice, cioè quasi infinite per la più grande parte, di noi, parte di noi. Quindi dobbiamo assicurare che le condizioni siano buone in queste vite. E quindi abbiamo in questa vita umana ci offre la capacità di produrre esperienze di felicità per molte vite. Per molte vite, quindi anche sia la nostra motivazione è semplicemente di ottenere il benessere, di ottenere un più grande benessere che è legittimo e abbiamo il diritto al benessere, dobbiamo essere intelligenti e dobbiamo quindi capire che la felicità e la sofferenza dipendono da ciò che facciamo. Quindi un essere ha la misura, quindi ritorna alla misura dell'essere di aver generato la mente di un essere di motivazione iniziale e che il suo atteggiamento si è girato dalla ricerca esclusiva della felicità e dell'evadere la sofferenza di questa vita, che non considera più questa vita come più importante, ma considera le vite future come più importante. E l'esperienza di questa vita in termini di benessere, in termini di sofferenza, sono un po' secondarie. Perché sono utilizzate cioè mezzi di eliminare il karma negativo, eccetera, di produrre stati di mente, di rinforzare certi stati di mente. Quindi questa è la misura, no? Sì, adesso è molto semplice di sapere dove ci troviamo. Sì, la nostra più grande occupazione è l'ottenere la felicità e la soddisfazione in questa vita, allora non abbiamo neanche generato la motivazione dell'essere di motivazione iniziale. Non abbiamo neanche ciò che si chiama una pratica del Dharma. Quindi la pratica del Dharma incomincia quando abbiamo come atteggiamento la ricerca della felicità che va al di là di questa vita. Possiamo utilizzare, no, non sto dicendo che non possiamo utilizzare delle pratiche spirituali per ottenere la felicità in questa esistenza, ma questo non è il Dharma. E non è una pratica spirituale. Questo è il materialismo, un materialismo intelligente, però entra comunque nel materialismo. Quindi la spiritualità o la pratica del Dharma, e questo è stato definito in quel non è qualcosa che, cioè che non è una produzione mia, questa cosa, è stato definito in quel modo dal Buddha, nei sutra, anche chiarito dall'Amazon Kappa nell'Amrima esteso. Quindi la pratica del Dharma incomincia quando abbiamo l'attitudine di un essere di motivazione iniziale. Quindi in quel modo non dobbiamo eludersi ciò che facciamo, no? Quindi dobbiamo cercare di generare questa mente, che ha come preoccupazione principale il benessere delle vite future, perché senza aver generato questa mente è impossibile generare una mente che ricerca la liberazione, e senza aver generato una mente che cerca la liberazione è impossibile generare la mente di bodhicitta. Ok? Quindi dobbiamo incominciare dove siamo. Ok. E abbiamo finito l'essere di motivazione iniziale. Adesso riprendiamo il testo. Ok, e siamo alla pagina 46. 46. No. Sì, 46. L'addestrare la mente nei stadi del sentiero condivisa dagli esseri intermedi. Perché c'è la parola condivisa qui? Chi è che mi può spiegare questo? Chi è che mi spiega il perché c'è la parola condivisi? Ok, è condiviso dagli esseri di motivazione intermedia e superiore. Okay? E invece se guardiamo anche il titolo che degli esseri di motivazione iniziale, avremo anche, guardate pagina 24. addestrare la mente nei stati del sentiero in comune con gli esseri inferiori, perché queste contemplazioni sono comune all'essere di motivazione iniziale, l'essere di motivazione intermedio e l'essere di motivazione superiore. Quindi anche se abbiamo un certo slancio emotivo per l'ottenimento della liberazione o l'ottenimento dello stato di Buddha, dobbiamo comunque incominciare qui, perché questo no, non possiamo saltare, non è che è un programma dove oh, a me mi interessa solo la terza parte, a me invece io ho la parte intermedia. No, non è così che funziona. Questi sono dei gradini e queste gradine vengono percorsi e le realizzazioni superiore si appoggiano su questa realizzazione detta inferiore, però non mi piace questa realizzazione inferiore, perché anche se abbiamo solo la realizzazione della morte dell'impermanenza, sappiamo tutti che dobbiamo morire, no? Sappiamo tutti, però questa comprensione diciamo, è intellettuale, nel senso che non l'abbiamo. Non ci tocca un livello profondo, quindi sappiamo che andremo a morire, sappiamo che tutto è impermanente, tutto cambia, però questo rimane a un livello molto superficiale e non è mai andato a un livello profondo in grado di modificare il nostro comportamento. Questa è comprensione, no? Quando vengono contemplati in un modo ripetuto, quando la mente è stata abbastanza purificata e potenzializzata, queste realizzazioni sorgono, okay? Diventano qualcosa di vivente, e modificano completamente il nostro comportamento, modificano completamente il nostro stato di interagire con gli altri, di percepire, cioè ridimensionano le importanze, i conflitti, tutto, tutto diventa, è un'altra storia. Solo delle realizzazioni, cioè molto, molto di base, come quella della morte e dell'impermanenza, cambiano la nostra vita. Cioè da giorno a notte, okay? Quindi qualcuno che sa che deve morire e che il momento della morte potrebbe accadere a qualsiasi istante, anche oggi, questa persona non va in cioè, non si lascia coinvolgere nelle discussioni, nei conflitti, cioè, un'altra storia, è un'altra storia. Quindi non dobbiamo sottovalutare queste contemplazioni degli esseri di motivazione iniziale. Ok, quindi siamo a pagina 46. Ok, è la lampada del sentiero di Atisha, legge: chiunque si distoglie dalla felicità dell'esistenza e si allontana dalle azioni che sono negatività, sforzandosi solamente per la propria pace, tale essere è chiamato intermedio. Okay, quindi l'essere di motivazione intermedio ha ottenuto la realizzazione dell'essere di motivazione iniziale, ma la sua comprensione è molto più profonda, è molto più profonda, è un essere molto più acuto, la sua mente è più maturata, perché l'essere di motivazione iniziale cosa cerca? Ricerca una felicità futura, quindi rinascere in stati di benessere come lo stato umano, con i vari attributi o quali dei dei del rame del desiderio. Ok? Invece questo secondo percepisce che anche le rinascite fortunate sono nella natura della sofferenza e sono quindi insoddisfacente nella loro natura. E lui non ricerca quindi essere protetto della sofferenza dei reami inferiori, ma ricerca anche di essere protetto della sofferenza di esistenza ciclica in generale. Okay, quindi ricerca di emergere dall'esistenza ciclica, quindi ricerca il nirvana. Il nirvana che cos'è? La cessazione della sofferenza o la cessazione, il fermare questo ciclo dove abbiamo l'aggregazione dei costituenti fisico-psichici dal potere delle azioni spinti dalle afflizioni motivate dall'ignoranza. Ok? Quindi ricerca l'estinzione di questo processo. Quindi non è che dopo non c'è più niente, tipo il suicidio cosmico, okay? Semplicemente non abbiamo più un corpo che è prodotto dalle azioni, dall'odio, dalla gelosia o dall'attaccamento. Non abbiamo più una mente che ha queste dinamiche mentali, ma abbiamo un corpo quindi che è il prodotto dalla saggezza, dalla pratica della generosità, dalla stabilizzazione meditativa. Quindi il corpo e la mente le abbiamo sempre, ma non sono più nella natura della sofferenza. Okay? Non sono più nella natura della sofferenza. Questo è il nirvana. Questo è il nirvana. Il nirvana non è un posto, è semplicemente smettere, cioè non aver più un corpo e una mente che sono fonte di sofferenza. Quindi abbiamo due divisioni: contemplare le sofferenze dell'esistenza ciclica, spiegare gli stati della pratica del sentiero che libera dalle sofferenze dell'esistenza ciclica. Contemplare la sofferenza della ciclica ha due sottotitoli: il completare, contemplare sofferenze origine, contemplare i 12 anelli del sorgere dipendente. Contemplare la sofferenza e l'origine, abbiamo prima i difetti dell'esistenza ciclica, dei difetti delle sofferenze di essenza ciclica e gli stadi dell'impegnarsi nell'origine dell'essenza ciclica. Quindi se qualcuno può leggere in italiano. Grazie. Vai. I difetti delle sofferenze dell'essenza ciclica. Il sutra dice: monaci, le sofferenze sono verità per gli aria, le origini sono verità per gli aria. Anche se esporre prima di tutto le vere sofferenze e successivamente le cause e le vere origini appare essere all'ordine delle cause e dei risultati. Il modo in cui questo va inteso è che è stato fatto per uno scopo preciso. I 400 versi dice: se non esiste in nessun modo un limite a questo oceano di sofferenze, perché tu, persona infantile, non sviluppi paura di affogare in esso? Il continuo sublime dice: proprio come una malattia va capita, la causa della malattia va abbandonata. Dimorare nella felicità deve essere ottenuto e si deve fare affidamento sulla medicina. Così pure le sofferenze, le loro cause, le loro cessazioni e similmente i sentieri devono essere capiti, abbandonati, conosciuti e ci si deve applicare. Dopo aver riconosciuto che la felicità o la sofferenza sono risultati, il punto essenziale è adottare e abbandonare le cause rispettive che lo producono. Quindi l'intenzione attuale di applicare questo principalmente alle sofferenze delle migrazioni felici. Rispetto alle loro osservazioni vi sono tre tipi di divisione. Grazie. Ok. Quindi abbiamo visto il risultato del primo addestramento è una rinascita superiore. Però abbiamo detto non dobbiamo essere soddisfatti con questo e dobbiamo produrre un altro livello di mente, e questo altro livello di mente è caratterizzato da un profondo disgusto, possiamo esprimerlo così, un profondo disgusto all'esistenza ciclica in generale. Ok? Senza questa base, okay? su questa base di un profondo disgusto per l'esistenza ciclica, non sto dicendo per l'esistenza, okay? Sto dicendo per l'esistenza ciclica, senza questa base è impossibile generare la mente di Karna di compassione, la mente di Bodhicitta e l'ottenimento dello stato di Buddha. Quindi è necessario generare questa mente. Noi da tempi senza inizio siamo stati condizionati al credere che tutte le cose che ci sono, tutte le meraviglie dell'esistenza sono fonte di ciò che l'esistenza ha da offrire, è fonte di felicità. Siamo stati da tempi senza inizio condizionati a credere in questa cosa, no? E quindi abbiamo proiettato su varie circostanze, okay? Un'immagine, una falsa immagine di bellezza e di felicità. Okay? E come rimedio a questa distorsione dobbiamo contemplare la natura spiacevole dell'esistenza. Okay? Qui non è che stiamo cercando di diabolizzare l'esistenza, okay? Di distruggere ciò che è veramente piacevole. Non è assolutamente la cosa. Andiamo a guardare esattamente come sono le cose, per la prima volta. No, noi funzioniamo con delle proiezioni, abbiamo molte proiezioni, ma non andiamo mai, entriamo sempre in contatto con queste proiezioni, di piacevolezza o di spiacevolezza, principalmente con una proiezione di bellezza e di piacevolezza, qualcosa che ha creato la nostra mente. Non andiamo mai non entriamo mai in contatto con la realtà dell'oggetto, o quando entriamo in contatto con la realtà dell'oggetto, allora non andiamo a analizzare la cosa, andiamo a rimbalziamo subito su qualcos'altro. Rimbalziamo subito su qualcos'altro. Quindi non siamo mai andati a analizzare qual è la natura obiettiva. Non stiamo parlando qui della natura ultima, okay? Stiamo parlando semplicemente della natura convenzionale. Quali sono le caratteristiche convenzionali dei sopporti sulle quali noi andiamo a sperimentare, sulle quali noi speriamo trovare felicità, soddisfazione, piacere. Si tratta di questo. Quindi questa sezione dell'insegnamento è semplicemente dedicata ad andare a analizzare la propria realtà, ciò che ci circonda in termini di caratteristiche e di attributi comuni, okay? E particolari. Okay? Quindi, quindi il problema, noi non vogliamo ottenere la liberazione. Non vogliamo ottenere la liberazione. Pensiamo che l'esistenza ciclica è un posto nel quale si può vivere. Basta avere il compagno giusto, nel paese giusto, la macchina giusta, la casa giusta, i figli giusti e tutto va bene e si può andare avanti. Finché avremo questa concezione, è impossibile ottenere la liberazione. Okay? Quindi dobbiamo cercare di distruggere, non di distruggere, sì, di opponersi a questa mente, come si dice, questa, cioè, un'allucinazione questo, andiamo a far capire alla mente che questa è impossibile, ma finché pensiamo che, ma sì, è possibile, basta, bla bla bla bla, così, mettere delle condizioni esterne e si può vivere bene l'esistenza ciclica, questa è l'ignoranza, okay? Questa è l'ignoranza, e finché ci attacchiamo a questo, allora la liberazione non è per noi. Okay? Quindi è impossibile generare una mente, è impossibile ottenere la liberazione perché è impossibile generare lo sforzo necessario per ottenere questa liberazione. Ottenere la liberazione è qualcosa di molto difficile perché dobbiamo andare a realizzare il modo di esistere ultimo dei fenomeni. Okay? E per realizzare questo, che è l'opposto del nostro modo di percezione e di concepire, è un grosso impegno. Dobbiamo prima avere un'etica, cioè, non vi dico, ok? Su quest'etica bisogna sviluppare delle concentrazioni che non andiamo neanche a concettualizzare. E avendo questo, diventa possibile dopo andare a realizzare il modo di esistenza ultimo dei fenomeni. Però per generare quel livello di sforzo, ok? Dobbiamo essere convinti che qui, in questo paese, che qui, in questo mondo, non è fatto per la nostra felicità. Non è fatto per la nostra felicità. Quindi lo scopo, nel buddismo c'è sempre questa grossa presentazione sulla sofferenza. Tutto è sofferenza. Okay? Quindi non è che il buddismo è una tradizione masochista. Okay, che dobbiamo riflettere sulla sofferenza per diventare tristi, eccetera, eccetera. No, anzi, è molto ottimista perché ci propone di liberarci completamente dalla sofferenza, non di to cope, come si dice to cope, o to deal with, non di trattare con la sofferenza, no? E di fare in modo che la sofferenza diventi sopportabile. Non è questo lo scopo è eliminarla completamente. Però per voler eliminarla, okay? Bisogna riconoscerla. È come quando siamo convinti di essere in buona salute, okay? Invece non siamo in uno stato di fisico precario, se siamo convinti di essere in buona salute, non andremo mai dal dottore a prendere delle medicine, a portare avanti una cura per ritrovare lo stato di salute, perché siamo convinti di essere in buona salute. È la stessa cosa. Se siamo convinti che nel samsara si può essere felici, che siamo degli esseri felici e che si possiamo diventare felici, allora non vorremmo mai emanciparci di questa forma di esistenza. E questa è la liberazione. Quando si tratta del nirvana, quando si tratta della liberazione, quindi è generare la liberazione di che cosa? La liberazione dei legami. dei legami. Dei legami a che cosa? Dei legami all'esistenza ciclica, a questo girovagare nell'esistenza senza controllo, portati, spinti dal vento del karma, okay, dell'afflizione, dove sperimentiamo piacere e sofferenza senza controllo su ciò che matura intorno a noi. Questa è la nostra sofferenza, quindi fisica e mentale, felicità anche fisica e mentale senza controllo. Quindi siamo degli esseri potenzializzati d'altro o da altro. Ok, cosa significa? Significa che non abbiamo controllo sulle nostre esperienze. Le nostre esperienze maturano in dipendenza di cose e condizioni che maturano dovuto alle loro proprie altre cose e condizioni. Okay? E noi sperimentiamo queste varie maturazioni. Quindi di che cosa dobbiamo liberarci? Dall'esistenza ciclica. Che cos'è l'esistenza ciclica? È il riconnettersi, okay? Questa è la definizione che dà il settimo Dalai Lama, riconnettersi con un corpo e una mente contaminata, spinti dal potere del karma e dell'afflizione. Questo, liberarsi di questo, è il nirvana. Quindi, in povere parole, dobbiamo ottenere sì, la liberazione. Quindi sotto il potere degli aggregati contaminati si rinasce nell'esistenza ciclica all'interno dei tre reami o in termini dei tre reami del desiderio, della forma e del senza forma, okay? O in termini degli esseri senzienti abbiamo cinque o sei tipi di esseri senzienti. Abbiamo gli esseri dei reami infernali, abbiamo i preta, abbiamo gli animali, abbiamo gli esseri umani, abbiamo i dei del rame del desiderio e del rame della forma. O se vogliamo sei, allora abbiamo i semidei e i dei del rame del desiderio e del rame della forma. Questa è la divisione in sei. O si prende rinascita in termini di quattro tipi di nascita. Quindi abbiamo dell'esistenza ciclica spinta dal karma e dipendendo di che tipo di esistenza abbiamo, si prende rinascita tramite il grembo materno, tramite l'uova, okay? Tramite l'umidità e il calore, o in un modo spontaneo in certi reami, okay? Quindi la liberazione che cos'è? Quindi è la liberazione del prendere rinascita spinto dal karma e dell'afflizione, e questo desiderio si chiama una mente che ha come oggetto d'intento la liberazione, e questo quindi è questa mente che dobbiamo generare. E il come generarlo, adesso entriamo nell'addestramento per vedere come far sorgere questa mente che ricerca la liberazione. Okay? Prima abbiamo visto come far generare una mente che non ricerca più esclusivamente la felicità di questa vita, ma che si gira verso, che ricerca la felicità nelle vite future. Okay? Abbiamo visto il processo e adesso entriamo in un livello molto più difficile, molto più sottile, sono delle cose da comprendere, è un po' più filosofico questo aspetto. Quindi il desiderio di ottenere, la Mazzon Gamma dice che il desiderio di ottenere la liberazione, che è il sollievo, la liberazione che cos'è? È il sollievo della sofferenza degli aggregati appropriati dal karma dell'afflizione. Quali sono gli aggregati? Sono l'aggregato della forma, l'aggregato delle sensazioni, l'aggregato delle discriminazioni, l'aggregato dei fattori di composizione e l'aggregato delle coscienze. Quindi sono i nostri costituenti psicofisici, quindi li possiamo dividere in due: uno, abbiamo l'aggregato della forma, sappiamo che cos'è la forma, e gli altri invece sono un aggregato mentale, okay? Che viene spezzato in quattro perché sono quattro, corrispondono a funzione, possiamo metterlo così, corrispondono anche a funzione della mente sulla quale la nozione di io sorge, okay? O corrispondono anche a un modo di entrare nell'esistenza ciclica, okay? Comunque abbiamo un corpo e una mente, questi sono i cinque aggregati, okay? Quindi questi aggregati nello stato attuale, e lo vedremo piano piano, cercheremo di comprenderlo, di vederlo, di realizzarlo, sono nell'entità della sofferenza. Okay? È un fardello. Fardello? Fardello. E la liberazione è il depositare quel fardello. Quindi la sofferenza, cioè, nel buddismo la sofferenza non sono gli altri, sono i cinque aggregati contaminati. E questo quindi è ottenere questa liberazione quindi della sofferenza, che è la liberazione, che è il sollievo della sofferenza dei cinque aggregati. Questo si basa sul il vedere, ok, che i cinque aggregati sono colmi di difetti, okay? Di difetti, e che la loro vera natura è sofferenza. Quindi questo ciclo di insegnamento ha questo proposito. E quindi, come lo dice il testo, abbiamo due sezioni. Abbiamo una sezione che riguarda il generare quindi questa mente che ricerca la liberazione tramite il completare le quattro nobili verità, e principalmente la verità della sofferenza dell'origine. E abbiamo un'altra sezione che è generare questa mente che ricerca la liberazione tramite il contemplare i 12 anelli del sorgere dipendente. Quindi sono due metodi per far sorgere questa mente che ricerca la liberazione. Okay? Quindi adesso incominciamo quindi con queste quattro nobili verità. Allora, sì, guardiamo, le quattro nobili verità è l'insegnamento quasi il più importante del buddismo. Sono i pilastri, sono i quattro pilastri da dove derivano tutto il resto, okay? Sennò, cioè, è impossibile parlare del buddismo senza parlare delle quattro nobili verità, cioè è impossibile. Quindi abbiamo queste quattro nobili verità: sono la nobile verità della sofferenza, la nobile verità dell'origine, la nobile verità della cessazione della sofferenza e la nobile verità del sentiero, del vero sentiero, quindi che conduce alla liberazione della sofferenza. Ok? Quindi sono verità, si chiamano nobile verità. Per noi non è che sono verità nello stato attuale, okay? Sono cose molto, molto oscure. Sono verità perché i nobili, quali sono i nobili? I nobili sono questi esseri che hanno realizzato direttamente la realtà ultima, il modo di dimorare dei fenomeni. Quindi per questi esseri, per questi nobili, sono verità. Sono verità. Okay, ecco perché si chiamano le quattro nobili verità. E sì, vediamo, sono anche in una sequenza particolare che è accennato nel testo che abbiamo appena letto, no? Abbiamo prima nella sofferenza, dopo l'origine. Poi abbiamo un altro ciclo, abbiamo prima la cessazione e dopo il sentiero che conduce alla cessazione. Quindi non sono presentati in un ordine di causa-effetto. Non sono presentati in una sequenza di generazione, no? Perché logicamente dovrebbe essere prima la presentazione dell'origine e dopo la presentazione del risultato, che è la sofferenza per il contaminato, e dopo si dovrebbe avere una presentazione all'interno del non contaminato, cioè l'uscita dell'esistenza ciclica, con la verità del sentiero che conduce alla liberazione, e poi la cessazione della sofferenza, la liberazione, no? Invece qui l'abbiamo presentato in un altro modo. Quindi abbiamo una sequenza di risultato e causa all'interno di ciò che è contaminato, e abbiamo un'altra sequenza che è risultato e causa all'interno del completamente purificato. Quindi il Buddha l'ha presentato in quel modo, c'è una profonda pedagogia dietro, perché è il modo nel quale vengono realizzate. Non sono presentati nell'ordine di produzione, ma nell'ordine di pratica o di comprensione o di generazione all'interno, di realizzazione all'interno del continuum del discepolo. Okay? Come viene prodotta questa cosa? Nel senso che quindi abbiamo visto, no? Origine e risultato sono rovesciate. Abbiamo prima il risultato e dopo abbiamo l'origine. Quindi dicendo che la risetta ciclica non è felicità ma è sofferenza, Quindi vengono spiegate, lo vedremo dopo, e molte forme di sofferenza. Okay? Andremo dopo, abbiamo una classificazione in 8, una classificazione in 6, una classificazione in 3, vedrete, non ne potrete più. Okay? Però è importante a farlo. Okay? Quindi spiegando ai discepoli che l'esistenza, quindi presentando la sofferenza, no? In tutte le sue varie classificazioni, vari modi, eccetera, quindi il Buddha conduce il discepolo a generare un disincanto per l'esistenza ciclica in generale, per l'esistenza ciclica, e quindi riconoscere che l'esistenza è nella natura della sofferenza. Quindi prima è simile a realizzare per primo il proprio stato di malessere o stato di malattia. Okay? Quindi una volta che la sofferenza quindi è riconosciuta come qualcosa di pervasivo ed è inevitabile, quindi uno si vede, vedrete, no? Uno si realizza che è sommerso, che è sommerso in un oceano di sofferenza, e quindi realizza che per liberarsi di questa sofferenza uno si deve opporre, bisogna opporsi a questa sofferenza, ok? E si realizza, quindi c'è questa ricerca, no? questa sofferenza dipende da cause, da che cosa sorge questa sofferenza, no? Da che cosa sorgono tutte queste esperienze spiacevoli, fisiche, mentali, nell'ambiente. Uno capisce e realizza che questa esperienza, questi disagi hanno un'origine, hanno una causa. Quindi prima viene realizzato lo stato di sofferenza e dopo, indagando, viene percepito che tutte queste cose sorgono da una causa. E che questa causa, quindi c'è un antidoto, cioè questa causa può essere, c'è un antidoto a questa origine, nel senso che eliminando la causa il risultato anche non sorge più. C'è possibilità di non sperimentare il risultato di sofferenza avendo eliminato la causa della sofferenza, l'origine della sofferenza. Ok, quindi analizzando, la persona capisce, no? che la causa principale della sofferenza sono le attività mentali, le afflizioni, no? Queste afflizioni di attaccamento, questi stati mentali, no? di avversione, questa mente turbolente, no? L'odio, questo è sofferenza, ma è anche l'origine della sofferenza. E quindi, continuando, spingendo l'analisi, okay, lo faremo insieme, si realizza che questi stati mentali sorgono da una distorsione della realtà, che è un'ignoranza fondamentale rispetto al modo di esistere della persona, della propria persona, della mente e degli altri fenomeni che ci circondano. Finché c'è questo fraintendimento della realtà, nel senso che, come abbiamo detto, no? Come ci appaiono le cose? Le cose ci appaiono come avendo delle caratteristiche del loro proprio lato. Okay? I fenomeni sono proprietari di caratteristiche. Nel senso, vediamo delle persone, vediamo delle situazioni, degli oggetti, è dovuto alla nostra percezione, alla nostra personalità, alle nostre impronte, predisposizioni, al nostro karma. Certe cose a noi ci appaiono come piacevole o spiacevole. Posso anche apparire all'interno di un gruppo come piacevole o spiacevole, semplicemente perché abbiamo delle predisposizioni comune con certe persone. Quindi le caratteristiche, il modo di percepire che abbiamo è che i fenomeni esistono dal loro proprio lato, che sono possessori di qualità, di attributi piacevole e spiacevole. Quindi la mente ha una reazione logica a questo modo di apparenza, a questo modo di concepire. Questa reazione logica è semplicemente l'attaccamento, il voler essere in contatto, questo slancio di attaccamento quando la cosa è percepita come piacevole, o di aversione, voler danneggiare anche quando il fenomeno viene percepito come spiacevole. Quindi abbiamo queste attività mentali dovuto a questo fraintendimento sulla natura dei fenomeni, che i fenomeni sono possessori delle loro proprie qualità. Quindi finché non abbiamo realizzati che i fenomeni sono vuoti di caratteristiche intrinseche, okay? che non hanno tutti questi attributi, che questi attributi sono una proiezione della propria mente, che infatti è la propria mente che va a proiettare questi vari attributi di piacevolezza, sgradevolezza, eccetera, eccetera. Allora la mente è vincolata dall'ignoranza, compie delle azioni e queste azioni la spingono a prendere rinascita in questi vari stati. Quindi l'origine della sofferenza che cos'è? L'origine della sofferenza è l'ignoranza che concepisce in un modo erroneo l'esistenza, le afflizioni mentali che ne derivano e le azioni che ci vincolano alla rinascita. Questa è l'ignoranza, questa è l'origine della sofferenza. Quindi dobbiamo farsi questa domanda, no? È possibile eliminare quel tipo di mente? Prima dobbiamo capire sì. Effettivamente i fenomeni esistono come tale, no? Non dobbiamo semplicemente accettare ok, questo qua ci dice che i fenomeni non hanno delle caratteristiche intrinseche, va bene, però è l'opposto di quello che percepisco. Quindi dobbiamo andare a indagare e vedere se il modo di apparire corrisponde al modo di esistere dei fenomeni. Questa è un'analisi, lo vedremo insieme, cercheremo di presentare queste varie analisi. È la logica, okay? Utilizzando la logica possiamo comprendere, possiamo intuire, okay? Che il modo di apparire e il modo di esistere è in contraddizione. Quindi cosa significa che il modo di esistere e il modo di apparire di un fenomeno è in contraddizione? Significa che i fenomeni sono falsi, sono falsi e che non entriamo quindi in contatto col modo di dimorare dei fenomeni, con la loro vera natura, il loro vero stato di essere. Okay? Quindi questo si fa all'interno, questo è un processo abbastanza lungo che si fa, è portato avanti da studio, vedremo insieme le grandi linee di questi vari ragionamenti. Okay? Quindi è possibile, anche se possiamo realizzare quel tipo di cose a un livello prima, quindi inferenzialmente, dobbiamo vedere se è possibile quindi liberarsi da questa concezione erronea. Quindi sì, qualcosa è erroneo, ok? Sì, qualcosa è erroneo, è necessariamente condannato a scomparire, necessariamente. È solo una questione di tempo, perché non ha base valida. Invece qualcosa, una percezione valida non può essere danneggiata. Non può essere eliminata una percezione valida, ma una percezione erronea, errata, necessariamente va danneggiata. Da che cosa? Da una mente che realizza che l'oggetto concepito da questa mente erronea non esiste. Quindi adesso abbiamo questa mente che sovrimpone delle caratteristiche, per esempio, di bellezza su un fenomeno, che il fenomeno esiste dal suo proprio lato in quel modo. Quindi che cos'è l'antidoto? L'antidoto è semplicemente andare a analizzare e a capire e far vedere alla mente che le caratteristiche non esistono del lato dell'oggetto, okay? Che sono proiettate dalla mente. Quindi si sviluppa l'antidoto diretto all'ignoranza, che è questa saggezza, no? Queste mente sono in contraddizione dirette. Sono in contraddizione dirette. Esattamente come l'odio per una persona, l'odio e l'amore, queste due menti non possono esistere simultaneamente nel continuum di una persona rispetto a uno stesso oggetto, una stessa persona. Okay? Esattamente nello stesso modo, una mente che concepisce l'esistenza intrinseca e una mente che realizza la mancanza di essenza intrinseca non possono esistere simultaneamente. Quindi lo scopo, come si ottiene la liberazione? Come si ottiene la liberazione? Piano piano dobbiamo disimpegnare la mente della concezione di essenza intrinseca, quindi dell'ignoranza, e questa mente va familiarizzata con l'antidoto, che è la comprensione della mancanza di essenza intrinseca, finché questa concezione erronea viene completamente eliminata dalla mente. L'eliminazione completa dell'ignoranza della mente, questo è la cessazione. Questa è la verità della cessazione. A quel punto si ottiene il nirvana. Okay? Quindi una volta che la persona, dopo aver analizzato, realizza la capacità che c'è, che esiste nel poter eliminare quindi l'origine della sofferenza, allora questa persona automaticamente si interessa al sentiero che conduce a questa cessazione. Ecco perché abbiamo primo la sofferenza, dopo l'origine, dopo la cessazione e dopo il sentiero che vengono presentate, perché questo è l'ordine nel quale quelle quattro nobili verità vengono comprese intellettualmente, okay? Vengono realizzate nel continuum del discepolo. Questo è, ecco perché quest'ordine è molto particolare e c'è una grande pedagogia dietro. Okay? Quindi forse mi sono un po' allargato, delle cose un po' complicate sono state presentate, non spaventatevi, okay? Verranno ripetute ancora, ancora, ancora, ancora, e piano piano la comprensione sorge, è una cosa obbligatoria, a un certo punto sorge. Okay? È solo una questione di tempo e di familiarizzarci con certi concetti, certe idee, certi concetti. Ok, quindi questo è il processo. Prima dobbiamo capire la verità della sofferenza, dopo dobbiamo analizzare e cercare di vedere qual è l'origine di questa sofferenza, e dobbiamo cercare di vedere se è possibile eliminare questa sofferenza, questa origine, eliminarla, e questo ci lascia capire che cos'è la cessazione della sofferenza, che cos'è la cessazione dell'origine, e quindi ci lascia anche il desiderio e la comprensione e il desiderio di praticare il sentiero che conduce a questa cessazione. Ecco perché abbiamo quest'ordine. Quindi adesso entriamo nella contemplazione di ciò che è la verità della sofferenza. Quindi la contemplazione della verità della sofferenza, il testo, pagina 47, abbiamo la sofferenza degli esseri umani, a meditare sulla sofferenza delle altre due migrazioni felice, abbiamo già fatto l'infelice, quindi non ce lo facciamo di nuovo, e subordine, come si pronuncia? Subordine, meditare sulle sofferenze che sono comune ai sei classi di esseri, ok? Quindi sì, la sofferenza degli esseri umani la vedremo su tre classificazioni. Vedremo la sofferenza, vedremo gli otto tipi di sofferenza, i sei tipi di sofferenza e i tre tipi di sofferenza. È importante a farcele tutti, soprattutto la divisione in tre è molto importante, perché qui abbiamo delle sottigliezze che se non vengono compresi è impossibile generare una mente che ricerca la liberazione. Quindi i tre tipi di sofferenza sono molto importanti. Quindi in generale, ve lo dico così, questo tipo di insegnamento entriamo in una fase molto un po' spiacevole. Okay? Quindi in generale le persone sono molto felici quando ascoltano insegnamenti sull'amore, la compassione, la mente di bodhicitta, okay? Anche insegnamenti sulla vacuità, perché rende la mente felice. No? Qui invece... ci sono delle resistenze, nel senso che noi vogliamo solo essere in contatto con ciò che è piacevole. Suoni, parole, esperienze, tattile, gustative, olfattive, tutto deve essere piacevole. Ogni volta che c'è qualcosa di spiacevole, la mente si stringe un po'. Quindi qui, di solito quando si fanno questi cicli di insegnamento sono all'interno di ritiri, eccetera, e si vede che quando arriviamo alle contemplazioni, anche le persone che stanno meditando, no, che fanno sessioni di meditazione, sperimentano un po' di agitazione, è così. Noi non vogliamo sperimentare la minima sofferenza neanche all'interno dei nostri sogni, quindi tenete questo in mente, però è importante riflettere su queste cose, perché... non dobbiamo contemplarle come sulla carta, no? Ah sì, c'è quel tipo di sofferenza, sì, c'è quel tipo di sofferenza. Le dovete riconoscere nel vostro continuum, altrimenti l'insegnamento non ha nessun potere. Questo non è una lettura, cioè nel senso se lo potete prendere così, però lo scopo non è una lettura sul buddismo, no? È semplicemente per cercare di eliminare la sofferenza. La sofferenza ha qualcosa da dirci, dobbiamo ascoltarla perché ha qualcosa da dirci. Ci dice che c'è qualcosa che non va nella nostra vita, okay? Soprattutto quella mentale. Dice che c'è qualcosa che non va nella nostra esistenza, è qualcosa che dobbiamo cambiare, okay? Il problema è che non sappiamo che cosa cambiare, non sappiamo che cosa aggiustare. Qui abbiamo è una cosa, quindi la psicologia ha un certo può aiutare a un certo livello, però ha dei limiti, okay? Quindi il buddismo comincia dove si ferma la psicologia. Nel senso che la psicologia ha come scopo di, la psicologia occidentale, no? Ha come scopo di ribilanciare l'essere e la persona. Io non mi pronuncio perché non sono assolutamente esperto in questa cosa. Lo scopo del buddismo non è di far che la persona sta bene, okay? O far che l'ego sta bene, è dissolvere questa cosa. Quindi per veramente cogliere l'insegnamento del Buddha nella tutta la sua dimensione e nei tutti i suoi benefici, bisogna già essere abbastanza stabile, ok? Abbastanza stabile. E quindi ascoltare questi insegnamenti possono essere un po' spiacevoli e possono agitarci, però è necessario, perché senza riconoscere la sofferenza non la vorremmo abbandonare. Quindi è importante che questa cosa va riportata nel proprio continuum e va verificata nella vita di tutti i giorni, o va verificata nella propria esistenza. Sì, cioè questo è così, vedrete che è così. Allora si può leggere un po', comunque adesso sono le 11:15, non entriamo, possiamo, sì, prendo un po' di domande e entriamo la settimana prossima nel dettaglio di queste cose, perché altrimenti non mi posso fermare. Nel senso che vanno fatti per pacchi. Ok, quindi ci sono delle domande rispetto a quello che abbiamo coperto insieme? Vai. Cosa pensi se i 5 aggregati, come descritti prima, sono il nama rupa dei 12 grandi del soggio dipendente, nome e forma? Esatto. Nome si riferisce all'aggregato, nome si riferisce ai 4 aggregati mentali. Si chiamano nome perché non hanno una base di forma, okay? Perché sono solo un aggregato di nome, nel senso che sono mente, e invece forma è l'aggregato della forma. Quindi all'interno dei 12 anelli sono questo legame, okay? Nome e forma, sono 5 aggregati, sì? Altre cose? Sono state delle cose complicate? Era complicato? Com'era? Non semplice? Esatto. E quindi ho difficoltà a capire come sulla base di una versione, che però che non cerchiamo in verità a espellere nella nostra vita la versione di Dante e l'altro, come si fa a usare proprio la versione alla vita samsarica per sviluppare qualcos'altro? Mi sembra in contraddizione. Ok, lì qui la versione non la devi sviluppare sulle persone. Ok? Non è di questo che si tratta. Devi sviluppare un disgusto su ciò che è l'esistenza all'interno del samsara, ok? Nel senso che vai a riflettere proprio su la varietà di sofferenza che ti affligge e che affligge tutti gli esseri, no? E vedi che a un certo punto vedi che gli esseri sono sommersi in un oceano di sofferenza, ok? Quindi l'avversione è per questo, il disgusto è per questo, per ciò che l'esistenza ciclica ha da offrire. Perché ciò che l'esistenza ciclica ha da offrire è nella natura della sepuri, nella natura della sofferenza. Come si dice? È marcio. Marcio? Marcio. È marcio. Tutto, non c'è niente su qualcosa, non c'è niente sul quale ti puoi appoggiare per sperimentare del benessere. Non c'è niente. Ma lo possiamo constatare piuttosto che avere una versione. Sì, non lo constato. Piace questo. Sì, ma constatare, semplicemente constatare non cambia niente. L'abbiamo constatato che siamo nella sofferenza. Siamo ancora qui, siamo ancora attaccati alle cose di questa vita. Anche se l'abbiamo constatata, l'unica cosa che ricerchiamo è la felicità di questa vita, è la felicità, nell'istante. Okay? Abbiamo una visione a corto termine, anche se facciamo pochissime sforzi per ottenere la liberazione o sviluppare delle qualità, anche se abbiamo constatato che siamo nella sofferenza. Qui il constatare non basta. Il constatare semplicemente è come capire che sì, tutto è impermanente, però questo livello di comprensione, che deve essere comunque generato, è già il primo passo, non basta per modificare la percezione, le attitudini e ridimensionare le importanze, capito? È qualcosa che dobbiamo andare molto più profondo. Infatti questo disgusto è proprio la parola di Lama Tsongkhapa, non è una cosa non è qualcosa che sto mettendo, cioè non è mio, ok? Lama Tsongkhapa dice che l'essere alla fine, no, quando si salta, che c'è la misura di aver generato la mente che ricerca la liberazione, quindi la mente che si chiama l'emersione definita o certa. Questo è in altri termini si chiama rinuncia, okay? Quindi il constatare che le cose non vanno bene non ti fa generare la rinuncia, anzi quello che ti fa fare è cercare di migliorare il quotidiano. Lama Tsongkhapa quindi dice che l'attitudine di un essere che ha generato questa mente, okay, si sente in questa esistenza come seduto su un ago. Cioè, seduto su un ago, nel senso che qual sia la sua posizione è sconfortevole. Dice che questa persona ha l'attitudine e ricerca la liberazione esattamente come uno avrebbe i capelli in fuoco e cercherebbe di spengere, okay? Quindi si sente prigioniero in una gabbia di fuoco. Queste sono le sue espressioni. Quindi per generare un'attitudine con questo slancio, no? Cioè, il disgusto sicuramente c'è, perché se non c'è disgusto la tua mente ritorna sempre sulle cose. Perché? Perché le cose, ecco, queste abbiamo incontrato qui le prime resistenze da quale parlavo, no? È difficile perché la nostra mente, perché qui ci andiamo a sbattere contro le proprie, la propria familiarità, condizionamento, e le proiezioni che questo può essere, questa è felicità, che questo è bello, che l'amore tra due persone, qualcosa di bello, eccetera. Tutte queste fantasie andiamo a sbattere sopra. Quindi c'è resistenza. È vero. Okay. Però quindi dobbiamo veramente analizzare le cose, dobbiamo andare piano e analizzare le cose veramente in dettaglio e veramente essere è quasi un'analisi chirurgica, ok? Quindi il semplicemente realizzare che qualcosa della natura della sofferenza non basta, okay? Devi veramente avere un profondo avversione, perché altrimenti non potrai mai produrre l'energia che hai bisogno per andare a realizzare la vacuità direttamente, okay? È chiaro che comunque siamo tutti qui, la realizzeremo un giorno la vacuità, e un giorno realizzeremo la mente di emersione definitiva e avremo questo slancio e questo disgusto. Presenza ciclica è solo una questione di maturazione della propria mente. Quindi la mente è così familiarizzata. Adesso la mente è così familiarizzata al percepire le cose come essendo piacevole, che quando uno ci dice no, è tutto sofferenza, cosa dici? È impossibile vivere così, no? Infatti è proprio tutto sofferenza. Non c'è niente. Nei test dicono, no, che i piaceri di questa vita sono come assaggiare il miele su una lama di rasoio, sono paragonate, queste sono delle, non so chi c'è, chi dice, sono la lama di un cortello, mi sa che era Naropa che diceva una cosa del genere. C'era Asanga diceva lui, cioè, la definizione della verità della sofferenza. Asanga diceva: la sofferenza sono gli esseri e il loro ambiente. Questo non è verità. Perché adesso la nostra comprensione è molto superficiale, no? Per noi sofferenza è solo i disagi fisici e mentali che possiamo sperimentare. Certe volte siamo depressi, non siamo contenti, i nostri sentimenti non sono condivisi, bla bla bla bla bla. Tutte queste cose, c'è il mal di pancia, il mal di qua, il mal di là, questo per noi è la sofferenza. No, questo è il livello molto superficiale della sofferenza. Dobbiamo andare a analizzare dopo quella è la sofferenza del cambiamento, e dopo dobbiamo anche andare molto più profondo e molto più sottile, vedere quella è la sofferenza onnipervasiva di composizione. Senza realizzare questi altri due, sofferenza del cambiamento e onnipervasiva di composizione, allora non possiamo avere il disgusto, presenza ciclica, e non possiamo quindi generare la mente che ricerca la liberazione. Sì. Allora la felicità, quella che noi percepiamo come felicità, è la sofferenza del l'inizio della sofferenza del cambiamento. Esatto. Allora, per quando andremo nelle tre divisioni della sofferenza, è molto importante, ve lo ripeto sta cosa, allora vedremo, analizzeremo qual è la natura dei nostri piaceri. Adesso c'è una prima fase dove si analizza la natura della sofferenza in generale, grossolana. Abbiamo la sofferenza della nascita, dell'invecchiamento, della morte, dell'essere separato, andremo nei dettagli. Okay? E dopo andremo a, quindi questa è si chiama la sofferenza della sofferenza, la sofferenza del dolore, e dopo andremo nella sofferenza del cambiamento e vedremo che sofferenza del cambiamento, che cos'è? È quello che noi chiamiamo felicità. Infatti non è felicità, è semplicemente un sollievo di un sconforto di una sofferenza precedente. Quindi c'è un malessere latente, okay? E quando questa esperienza, questo disagio diminuisce un po' dovuto a condizioni esterne, allora noi abbiamo questo, c'è una sensazione di piacere che viene generata nella nostra mente, e pensiamo che questa è la felicità, ma è semplicemente un sollievo, è semplicemente la sofferenza, si chiama la sofferenza del cambiamento. Okay? Quindi questo, ci passeremo un po' di tempo su questo, e dopo andremo anche a vedere la sofferenza onnipervasiva di composizione. Che cos'è la sofferenza onnipervasiva di composizione? È semplicemente il nostro stato contaminato, non illuminato, ok? Il fatto di avere questo corpo e questa mente, no? È come una ferita che mai si chiude e cicatrice, no? Cicatrice. Come si dice? Cicatrizza. Siamo sempre lì a proteggerla, però andiamo sempre a sbattere di qua e di là. Capito? È il fatto che a ogni istante, a qualsiasi momento, la mente può produrre sofferenza, il corpo può sperimentare sofferenza. A qualsiasi istante, basta che le condizioni siano presenti, e possiamo generare dell'avversione, della gelosia, dell'attaccamento, della brama. Questi stati mentali che sono nella loro natura sofferenza. Okay? Quindi queste cose vengono analizzate in dettaglio, dobbiamo riconoscerle, okay? Dobbiamo capire che finché abbiamo una mente che in questo stato precario, debole, precario, okay? Che può essere depressa perché ha sentito delle parole spiacevole per settimane, okay? O che può essere disturbata semplicemente perché non può ottenere l'oggetto dei suoi desideri. Finché abbiamo una mente così, la felicità è una cosa impossibile. Quindi la felicità può essere solo guadagnata quando questi stati sono completamente eliminati dalla mente. Questa è la liberazione. E questi stati sorgono dall'ignoranza, dalla concezione di esistenza intrinseca. Quindi finché c'è l'ignoranza ci sarà questi stati mentali che ci producono della sofferenza. Quindi la pacificazione della sofferenza dipende direttamente dall'eliminazione dell'ignoranza. Quindi tutti gli insegnamenti del Buddha, tutti, senza eccezione, in un modo diretto o indiretto, sono fatti per farci realizzare il modo di esistere ultimo dei fenomeni. Okay? Infatti dice che il Buddha ha l'aspetto della talità, una delle sue vari aspetti, quella della Trinità, significa che viene in questo mondo specialmente per insegnare la natura ultima dei fenomeni. Ok? E in tutte le altre tradizioni spirituali, che sono valide anche, okay, ai loro livelli, presentano una separazione della sofferenza, una separazione anche della sofferenza del cambiamento, per certi, ma non presentano una separazione della sofferenza di pervasiva di composizione, perché questo dipende direttamente dal realizzare la vacuità dei fenomeni, e questo è un attributo particolare dell'insegnamento del buddismo. Okay. Quindi è una cosa non semplice, okay, ma senza riflettere per molto tempo, sulle varie sofferenze di esistenza ciclica, è impossibile generare questo desiderio della liberazione. È anche impossibile generare la mente di amore e di compassione. È semplicemente parole. Perché è impossibile desiderare liberare gli esseri della sofferenza, di una sofferenza dalla quale noi non vogliamo neanche essere liberati, o di una condizione che noi non percepiamo neanche come una situazione dalla quale dobbiamo uscire assolutamente e il più velocemente possibile. Quindi non sottovalutate queste contemplazioni, perché sono quelli che sono di un grande beneficio, perché non soltanto ci aiutano a mollare un po' le nostre aspettative sulla vita e a comprendere quindi che la felicità non esiste dove andiamo a ricercarla, ma sono fondamentali per generare la mente di amore incommensurabile, le mente di equanimità e le mente di grande compassione, fondamentale. Senza la quale la mente di Bodhicitta non può sorgere, senza la quale lo stato di Buddha non esiste neanche. Okay? Quindi mi fermerei qui. Domenica prossima incominciamo la sofferenza. Quindi cerchiamo di dedicare le proprie virtù accumulate. Okay, abbiamo generato delle virtù, cercando di riflettere su queste varie cose, che non sono semplici. Okay, quindi abbiamo generato e fare in modo che non vengano perse in maturazione, di una volta, e anche non vengono distrutte dalla rabbia. Quindi andiamo a dedicarle per fare all'illuminazione, cioè alla liberazione della sofferenza di tutti gli esseri senzienti, affinché noi velocemente otteniamo lo stato di Buddha e siamo di beneficio a tutti gli esseri senzienti, finché generiamo velocemente la mente di Bodhicitta, la comprensione della vacuità, okay? E affinché i maestri che insegnano i veri sentieri possano vivere lungo in questa vita, che i loro desideri siano esauditi, e finché il Dharma, che è la fonte di felicità, che dimora per lungo in questo mondo. Gewandi anyodo da lama sangye drungyo ne andrawa jinja malopa neye sala gomba jamjo semjo rinpo je amagya panam gyuji yama nyamba nebayo gone gondu belwa jo gare rawe gorwe jingam de damdam dewa malu jwe Chenre ziwa tenzi gyantso yi Shambhe site pandu denju ji Dazo jinye sambhe gyawa diya Demdam drawa kuna gambena Nyamba jetsu lozan drama yi Tembe nyambo rindu zelche zhong. Grazie.